Radio 24 Reportage. Dan Peterson, La mia America è qui, di Carlo Genta. Milano, Pala Lido, siamo venuti qui dove è nata una leggenda dello sport italiano, non solo del basket. Siamo qui alla fonte della leggenda dell'Olimpia Milano per raccontare una leggenda, quella di Dan Peterson, piccolo grande uomo da Evanston, Illinois. Fu l'epicentro di quel terremoto negli anni 80 e adesso ne ha provocato un altro tornando all'Olimpia quasi 24 anni dopo averla lasciata. Ciao coach. Ciao Carlo e amici sportivi di Radio 24, un grande saluto a tutti. Coach, la prima volta che sei entrato qui in questa palestra, Milano 78, sì. Com'è stato quel giorno? Ti ricordi qualcosa? Oh, assolutamente, perché avevano ceduto Vecchiato e Bianchi, Ferracini era via con la Nazionale, poi negli anni precedenti tanti, Barriviere, Iallini ceduti, Masini, Cerioni, Giomo, allora prima dell'allenamento c'erano questi sei bambini più qualche juniores, cioè sei che sono diventati la banda Bassotti, ok. C'era Casalini qui con me, sono venuti dentro il giocatore e non c'era neanche lo straniero, quindi c'era D'Antoni, Sylvester e tutti i bambini. E ha detto a Casalini, e Franco dice, coach vogliamo cominciare? Ho detto, aspettiamo il resto della squadra. Dice, no coach, questa è la squadra. E quindi ho detto questo non è un buon segno, okay? Perché tutti veramente si vedevano, i due Boselli, Anchisi, Battisti, Fritz e compagnia, e quindi Gallinari, e quindi erano tutti sotto i 20 anni e quindi ero un po' preoccupato. Dimmi una cosa dell'America in cui sei cresciuto. L'America sportiva per te erano i Cubs, erano i Bears, non c'erano ancora i Chicago Bulls? No, ma però c'ero, nel 46, io avevo 10 anni, è nata l'NBA, veramente c'era la BAA, B-A-A in italiano, e la NBL, che due anni più tardi hanno fatto la fusione per fare la NBA. Avevamo a Chicago i Chicago Stags, i Cervi, ok, che poi dopo 4 anni sono scomparsi per motivi economici. Lì era veramente il mio vero amore per il basket. Non ho, tuttora non ho digerito la scomparsa degli Stags. Poi io sono da Evanston, che è fra il primo sobborgo nord di Chicago, paradiso in terra per sport, per scuola, per vita, per famiglia, per tutto. È chiaro, essendo vicino a Chicago, i Cubs di baseball. Mio padre era tifoso dell'altra squadra di baseball, i White Sox. E poi Bears di football, ai tempi c'erano due squadre di football, anche i Cardinals che oggi giocano in Arizona. E più avanti ho conosciuto anche i hockey sul ghiaccio, i Blackhawks. Coach, sei arrivato in Italia arrivando da un posto difficile, il Cile dei primi anni 70. Sì. Che esperienza è stata? Cosa ti ha dato quella? Well, innanzitutto quello che mi ha dato è stato il ponte fra gli Stati Uniti e l'Italia, cioè perché lì ho dovuto fare tre cose cruciale per trovarmi bene in Italia. Uno, ho imparato e perfezionato una lingua straniera, latina fra l'altro, spagnolo, quindi il salto da imparare l'italiano è stato facilissimo, cioè molto similare le due lingue. Secondo, forse prima, ho fatto un aggiustamento culturale, essendo fuori dagli Stati Uniti, cioè proprio ho fatto l'aggiustamento che ogni americano deve fare, quindi trovarmi bene in Italia è stata la cosa più facile nel mondo. E terza cosa, ho capito cos'era il basket FIBA internazionale, non NCAA, NBA americano, cioè ero super preparato quando sono arrivato qua grazie al Cile. La vita in Cile è stata una cosa, c'era Allende ancora, io sono andato via 12 giorni prima della rivoluzione che ha trovato, Allende si è ucciso proprio durante quella rivoluzione, e quindi quasi non racconto più del Cile perché nessuno mi crede, ho visto di tutto. E l'Italia che hai trovato sbarcando da quell'aereo? Che Italia era? era molto bello. Poi io ho conosciuto sostanzialmente Bologna, una città ai tempi veramente particolare, architettura, bellezza, cultura, all'università, coincidenza strana, la mia confraternita americana nell'università da Kappa Sigma dice di aver radice nel 1400 all'università di Bologna, forse stanno inventando, non lo saprei dire, però anche lì mi sono trovato bene. E invece Milano, fine anni 70, anni 80, com'era Milano? Oh, bellissima città, io mi sono innamorato di diverse cose. Il mio massaggiatore Angelo Cattani mi ha portato alla Scala a vedere sia opera che balletto che concerti. Quindi è stata una grande apertura mentale per me. Ho fatto amicizia al ristorante con Santa Versace, che ha cominciato a seguire la moda, anche Giorgio Armani, tanto per dire, Ottavio Missoni. E quindi anche lì è stata un'apertura mentale per me. Il quartiere Brera, cioè mi sono innamorato di diverse cose di Milano. Infatti tu sai che recentemente il New York Times ha detto di tutti i posti del mondo da visitare il numero 5 era Milano. E quindi non Roma, non Firenze, non Venezia, Milano, proprio davanti a tante altre grandi città. E era Milano da bere, no, negli anni 80. Assolutamente. Sei diventato un simbolo di quella città, anche attraverso le telecronache, attraverso gli spot, eri un simbolo di quella Milano. È chiaro che sono stato fortunato grazie a Bruno Bogarelli che mi ha preso per fare le prime telecronache NBA, che adesso è il mio capo lì a Sport Italia, anche lui in questa faccenda qui con Olimpia è stato veramente perfetto, anzi più grande tifoso di tutto questo passaggio all'Olimpia Milano, adesso è stato lui che mi ha facilitato tutto. Senti, quando hai conosciuto Berlusconi? È stato la prima volta nel 82, aveva fatto un anno con Prima Rete Indipendente, 80-81. Mm. Poi è fallito la PIN, la Prima Rete Indipendente, e Bruno ha portato il progetto diritti di NBA a Fininvest, okay? Sì. Siamo andati sul canale 5. Alla fine quest'anno ho rinnovato con Bruno, però ho conosciuto anche Silvio Berlusconi che mi voleva parlare le cose, quindi primo grande impatto su lui. E lui era veramente... sulla questione della televisione in prima persona, cioè il suo impero era quello, che poi ovviamente Milano 2 e le altre cose, però lui aveva veramente di cuore la questione di televisione. Senti, ma dimmi la verità, è vero che ti ha chiesto di allenare il Milan? Devo chiarire questo, perché nell'87 non c'è stata una richiesta formale, c'è stato, diciamo, un mini sondaggio portato avanti da Bruno Bogarelli, perché lui era direttore programmazione sportiva le reti Fininvest e anche direttore di news di Fininvest. Milan stava cambiando allenatore, poi ovviamente hanno preso Sacchi, però io sono stato lì, ho detto, a gennaio mi hanno parlato di questo, l'interessamento meno, ho detto no, io faccio tutte le cose a bocce ferme e poi non voglio rovinare questa mia squadra, che abbiamo tre traguardi, poi fortunatamente li abbiamo centrati tutti. Ho detto, se mi volete parlare fino all'anno, a bocce ferme vi parlo. Non hanno potuto aspettare, ho preso Sacchi, infatti vedo Galliani ogni tanto, sono anni che non vedo Silvio Berlusconi, 20 anni forse, e dico sempre a Galliani: Adriano, avete sbagliato tutto, avete preso Sacchi, che poi ha vinto tutto Sacchi, no? E Galliani, molto gentile, dice sempre: caro Dan, anche con lei avremmo fatto gli stessi risultati. Non è vero, però mi fa piacere. La tua America oggi, la tua città Chicago ha incoronato il primo presidente nero americano, vista da qui, ormai tu non vivi qui da molti anni. Non sono molto politico, ma in America è molto più difficile adesso, paese molto spaccato per politicamente, come non ho mai visto il paese polarizzato, gente non molto contenta, crisi economica causata dagli americani, fra l'altro questa grande crack qui, crisi economica, crisi finanziaria, tutte e due cose insieme, cioè mancanza di fiducia, gente, cioè, proprio cose gestite male, ma anche il governo ha cercato di aiutare, per esempio General Motors, che era 25 miliardi in debito, cioè, dato 25 miliardi dicendo: oh, adesso cambiate la maniera di fare, oh no, andiamo avanti a fare le stesse stupidate che abbiamo fatto per metterci sotto di 25, cioè, non rispetto questo, assolutamente no, quindi non è l'America che ho lasciato tanti anni fa.